dal 2009 ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha. Radio Libri Amoci Web. Libera, solidale, divertente. Tra le righe. Libri, autori, consigli di lettura e non solo, con Adelaide Spallino. Magaria in dialetto siciliano vuol dire sortileggio, stregoneria, e di sortileggi, stregonerie erano pieni le storie, o meglio, li conti che gli anziani raccontavano un tempo ai bambini. Magaria è adesso una fiaba scritta da Camilleri e pubblicata da Mondadori. È la storia di una bimba, Lullina, che ama stare con il nonno che le racconta sempre molte storie. Però un giorno è Lullina a raccontare al vecchio di aver fatto un sogno strano, nel quale un omino minuscolo, vestito di giallo, le ha rivelato una formula magica che serve a far sparire le persone. Lullina vuol provare se è vero, così ripete le 7 paroline magiche e, puff, scompare, lasciando il nonno disperato a cercarlo ovunque. Sono bastate solo 7 paroline magiche. La storia di Magaria risale a più di 15 anni fa, quando al maestro Camilleri una cooperativa di detenuti ed ex detenuti commissionò una favola amara. Dopo qualche tempo, il compositore Marco Betta si ispirò a Magaria per un'opera musicale che dal 2001 è stata rappresentata moltissime volte e sempre con grande successo. La favola di Camilleri trova ora casa in un libro con le bellissime illustrazioni di Giulia Orecchia, che dal 1980 lavora come autrice e illustratrice di libri per l'infanzia. Lo stile inconfondibile di Camilleri incontra dunque il tratto vivace di Giulia Orecchia e insieme danno vita a un connubio ideale per una favola ambientata in Sicilia che opererà nei lettori, ne siamo sicuri, piccoli o grandi, una vera e propria Magaria. Magaria, allora, di Andrea Camilleri per Mondadori. Dal 2009 ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha. Radio Libri Amoci Web. Libera, solidale, divertente. E in libreria, pubblicato da PM nella collana del Battello a Vapore, il nuovo romanzo per bambini di Lia Levi, Io ci sarò. È la storia di un ragazzino ebreo, Riccardo, che è costretto a partire da solo per raggiungere la sorella a Roma. Riccardo attraverserà l'Italia occupata dai nazisti e sarà un viaggio duro, durante il quale incontrerà ogni sorta di umanità, malvagia, indifferente, buona. Gli daranno una mano i partigiani perché possa mantenere la promessa fatta un giorno alla sorella: se un giorno avrai bisogno di me, io ci sarò. Pisana di nascita e piemontese d'origine, Lia Levi è giornalista, scrittrice di libri per adulti e per bambini e ha diretto per 30 anni la rivista Shalom. La sua è una voce importante, una testimonianza vivida delle discriminazioni razziali subite da bambina, testimonianza che riporta con grande sensibilità nei suoi libri. La sua produzione narrativa è ampia ed è stata più volte premiata, come nel 2005 quando ha ricevuto il Super Premio Andersen Libro dell'Anno. Io ci sarò, di Lia Levi, per il Battello a Vapore, PM. Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata e vi ricordano che questo programma